La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:29 primi e 45 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino. Vi ricordo il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24, per l'opinione il 349 238 6666. Questa puntata è dedicata in particolare ai 500.000 disoccupati e disoccupati di lungo periodo che continuano a essere lo zoccolo duro di una disoccupazione nel nostro paese che continua a essere più vicino al 12% che all'11%. Perché parte finalmente, sia pure in forma solo sperimentale e per 30.000 disoccupati, a quasi due anni da quando era previsto nel Jobs Act, un pilastro, il secondo pilastro rispetto alle modifiche che Jobs Act ha fatto sui tipi di contratto e con la decontribuzione prima massiccia fino all'80%, poi quest'anno il 40% dei contributi riservati ai contratti a tutele crescenti. Qual è questo secondo pilastro? Quello, me ne avrete sentito parlare un mucchio di volte, immagino, se siete fedeli ascoltatori, quello che mancava fino a questo momento, e io aggiungo tragicamente, cioè mancava il pilastro delle politiche attive del lavoro. Sì, è vero, abbiamo cambiato il nome e particolarità tecniche dei sostegni al reddito di chi ha perso il lavoro. Sapete che rispetto alla vecchia cassa integrazione c'è il NASPI, che ha una durata inferiore, tra l'altro, ma detto questo, la svolta vera è quella di introdurre nel nostro paese prassi efficace di affiancamento dei disoccupati, a cominciare dai disoccupati di lungo periodo, per dargli un percorso sostenuto direttamente con un tutoraggio diretto di ricollocamento sul lavoro. Mi avete sentito dire mille volte che la questione non si risolve trasformando i vecchi centri provinciali per l'impiego nella nuova Agenzia Nazionale del Lavoro prevista dal Jobs Act, ma che si trattava invece di adottare un modello diverso, quello di limitare il più possibile il ruolo del settore pubblico, non solo ai vecchi centri per l'impiego, ma a un sistema di accreditamento di voucher, consentendo direttamente al disoccupato di decidere dove impiegarlo meglio nei centri pubblici ma anche privati accreditati nel sistema, e attraverso il voucher realizzare il percorso diretto di formazione e riformazione e di contatti per immissione diretta nell'occupazione. Parte finalmente la sperimentazione. La prima domanda che io porrò ai nostri ospiti che vi presento tra pochissimo è: perché cavolo abbiamo dovuto aspettare tutto questo tempo? Perché a me questa sembra una delle priorità più assolute. Sapete che sono un tipo un po' polemico, ma abbiamo trovato i soldi, il governo, per questo o quel bonus, e qui c'è una questione, la disoccupazione, che ha a che vedere con la dignità e con il reddito di centinaia di migliaia di italiani. Io avrei anteposto la realizzazione di questo assegno di ricollocazione immediatamente dopo l'approvazione del Jobs Act, insieme alla decontribuzione. Questa è la prima domanda. Come funzionerà? Senza entrare troppi nei dettagli, vi dico di che si tratta. Purtroppo per il 2017, rispetto a una platea di 600.000 persone almeno, c'è solo un primo modulo sperimentale di 30.000 disoccupati che abbiano almeno qualche mese di godimento già del vecchio assegno di disoccupazione della cassa integrazione, cioè del NASPI. Almeno 4 mesi bisogna avere per iscriversi e completare la registrazione sul sito dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro, l'ANPAL. Una volta inseriti i dati, l'agenzia che invia direttamente una lettera a oltre 30.000 percettori di NASPI da almeno 4 mesi per avviare nel 2017 il percorso. Quindi è una sperimentazione, solo 30.000 persone purtroppo. Che cos'è questo voucher in dotazione? È un voucher che non sostituisce l'assegno NASPI di cui ciascuno gode, ma si somma alla NASPI, e che può oscillare a seconda delle caratteristiche delle qualifiche del disoccupato, del settore delle sue qualifiche, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro, e che dura 6 mesi, replicabili per un altro ciclo di 6 mesi, quindi fino a 12 mesi per questo percorso di riqualificazione e ricollocazione degli dei disoccupati, quindi 6 mesi prorogabili per altri 6, ma senza rinunciare al NASPI. Ricordo a tutti che il NASPI dura al massimo 24 mesi. Che cosa succede con questo contratto di ricollocazione oltre al voucher? Che naturalmente il disoccupato decide di utilizzarlo presso uno dei centri pubblici o privati accreditati nel sistema e nella piattaforma gestita dall'Agenzia Nazionale per il Lavoro. Dopodiché il meccanismo del voucher, la sua quantità di denaro, è proporzionata a seconda dell'esito della ricollocazione, cioè il centro per l'impiego incasserà l'intera somma se avviene una ricollocazione con la firma per il disoccupato di un contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Invece, più il contratto diventa a tempo determinato, e cioè a seconda della durata del contratto a tempo determinato, più si scala la cifra in meno che a quel punto incassa il ricollocatore accreditato nel sistema. Per il Sud c'è comunque un terzo del voucher in più, anche in presenza di contratti a tempo determinato da 3 a 6 mesi, e questa è la finalità di questa aggiunta dichiarata dal governo discriminante a favore del Mezzogiorno, disoccupati nel Mezzogiorno e degli operatori, dei ricollocatori accreditati nel Mezzogiorno. Deriva dal fatto che lì è ancora più grave che nel resto d'Italia la necessità di far emergere lavoro nero, no? Ecco, dopodiché c'è il tutor garantito nel centro pubblico dell'impiego o nell'agenzia privata che diventa il tramite dell'impiego di questo voucher, che segue in questo percorso verso i nuovi contratti, verso il ricollocamento, il disoccupato, spingendolo a seconda delle possibilità ad aggiornare le proprie qualifiche per i colloqui con le imprese e così via. Dopodiché, che cosa avviene una volta che arrivano le offerte di occupazione? Ecco, qui diciamo il lavoratore può rifiutarle. Sapete che questa è una delle modifiche fondamentali attraverso cui la Germania modificò il sistema del sostegno al reddito, con una graduazione a seconda del numero e dei tipi di rinuncia da parte del lavoratore a nuove offerte di lavoro che gli venissero corrisposte all'interno di un percorso di questo tipo. In Germania alla fine non puoi rifiutarti oppure perdi il sostegno. Qui, almeno nel primo modulo sperimentale, in una valutazione non congrua fatta dal lavoratore della proposta che gli viene, non fa perdere il NASPI. Però se la valutazione della congruità fatta dal ricollocatore invece c'è, allora il lavoratore anche nel nostro paese, in questo primo modulo sperimentale 30.000 unità, perde il NASPI, cioè perde l'assegno di disoccupazione. Spero di avervi spiegato più o meno come funziona. La domanda però è: come mai così tardi? Come mai per così pochi? Ripeto, la dotazione per questi 30.000, il budget a disposizione per l'anno prossimo sono 200 milioni a disposizione dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro per testare questa sperimentazione, il che fa capire che se 200 milioni è per una sperimentazione di 300.000, di 30.000, poiché la platea potenziale è di 600.000, bisognerebbe moltiplicare per 20, quindi capisco che c'è un problema di risorse, però è anche vero che questa è la politica attiva del lavoro, non cambiare il nome ai vecchi centri provinciali del lavoro. I nostri due ospiti. Abbiamo con noi il segretario generale della FIMCISL, Marco Bentivogli, tra l'altro ve lo risegnalo, abbiamo già parlato a questi microfoni, autore del libro che è uscito qualche mese fa, Abbiamo rovinato l'Italia, perché non si può fare a meno del sindacato, edito da Castelvecchi. Grazie a Marco Bentivogli di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. E Giuliano Cazzola, ex deputato, esperto di welfare e previdenza, ci rivolgiamo spessissimo a lui sulle questioni del lavoro e delle pensioni, che ringrazio di essere con noi, buon pomeriggio. Grazie, saluto anche Marco, che è figlio di un mio collega, quando facevo sindacalista. È quasi un figlio per me. E tra l'altro Cazzola, oggi non parliamo del referendum né delle elezioni politiche, perché Cazzola ieri ha fatto un'uscita che ha suscitato molte polemiche, mi ha lasciato abbastanza perplesso, ma non parliamo di questo oggi. Cazzola, io la prendo per una battuta quella che hai detto, però insomma era una battuta di un certo... di un certo paese, evocare i carabinieri se qualcuno vince le elezioni. Sì, tieni conto che Grillo aveva evocato Pinochet. No, ho capito, però ecco, la mia idea è che è meglio che non le alimentiamo queste spirali. Io sarei per un modo un po' più controllato, così come non reagisco quando il premier a questi microfoni mi dà un colpo basso, direi che anche è meglio non reagire tutti, ma mi sbaglio io. Comincerei da Bentivogli. Le due domande sono: innanzitutto, quali sono le vostre opinioni sulla modalità di questo primo modulo? Però perché aspettare tutto questo tempo? E perché per una platea così limitata, secondo voi? Allora, innanzitutto io condivido l'analisi che lo strumento è sicuramente meglio organizzato di tutte le cose messe qui, anche con le riesumazioni precedenti che ci sono stati dei centri per l'impiego pubblico che hanno dimostrato nella storia un fallimento dopo l'altro, per cui... sarebbe stato riesumare il non riesumabile. È vero che ci si è messo troppo tempo, io ho sempre detto che le politiche attive sono la prospettiva, il tema vero è che se si accorcia la coperta degli ammortizzatori sociali, noi dal primo di gennaio non avremo più la mobilità e sarà un sistema di sostegno passivo, però era quello che c'era, perché il tema vero è che la rete di servizi, di agenzie per le politiche attive, sia, posso dire Giannino, privata che pubblica, è piuttosto inefficace. Noi abbiamo affrontato molte crisi, cito tra le altre Indesi, Whirlpool, eccetera, già prima del 2008, con la sottoscrizione nei contratti di ristrutturazione di programmi di outplacement attraverso agenzie anche private di ricollocazione. Il bilancio non è positivo, nel senso che in molti casi c'è un problema proprio di efficacia degli strumenti che si utilizzano, negli altri c'è spesso un problema di tessuto produttivo che si è completamente desertificato. Anche in questi mesi stiamo affrontando nel Sulcis la partita delle politiche attive per i lavoratori dell'indotto ex Alcoa, ma nel Sulcis non c'è il tema di ricollocare da una parte all'altra, che c'è il deserto attorno e il rischio è che l'assegno i ragazzi lo prendano per farsi un biglietto dell'aereo e andare a lavorare altrove. Allora il tema è che la platea è piccola, è verissimo, se serve per sperimentare qualche cosa di serio che in passato non c'è mai stato, benissimo. La cosa molto importante è che il lavoratore, soprattutto in questo primo lotto, deve essere nel DID, cioè deve dare la disponibilità immediata all'occupazione, per cui non sarà una somma. La seconda misura, condivido, molto positiva, è che l'agenzia riceverà il totale della copertura di questo assegno di ricollocazione solo se porterà a buon fine e soprattutto con un lavoro vero, perché sappiamo bene in Italia con gli strumenti di tutela della disoccupazione quante frodi ci sono state in diversi settori. Questo è sicuramente un tema decisivo. Io credo che proprio per parlare di flex security nel nostro paese i passi siano ancora molto impegnativi, nel senso che noi anche le banche dati adesso con l'AMPAL, le ex banca dati di garanzia giovani, si arriverà a fare una cosa nazionale. Io non voglio parlare del referendum, però chiaro che le potestà normative delle regioni sulle politiche attive del lavoro sono state un disastro e io penso che se non si supererà quel mostro che è il titolo quinto, l'AMPAL sarà completamente inefficace. È la mia valutazione molto, molto serena ma molto ferma, perché oggi le regioni sono spesso da intralcio a questo tipo di attività. Che dice Giuliano Cazzola sui tempi, la platea e le considerazioni di Bentivogli? Ma io sono abbastanza d'accordo con la considerazione di Bentivogli e con le sue. Faccio notare che quello che ho sentito da uno dei collaboratori di Renzi, no, di quelli che hanno lavorato questa operazione, quando ha detto che fare una norma è abbastanza facile, far funzionare delle strutture e delle persone, no, dei servizi, si fa i conti invece con una realtà un pochino più difficile. Non è facile passare a diciamo dalle politiche passive alle politiche attive, per cui anche cominciare con una sperimentazione è abbastanza limitata, secondo me è più un problema di difficoltà dell'operazione che di risorse. Ora capisco meglio cosa pensa, cioè della necessità di elaborare sul campo fin dall'inizio un modello nuovo, si può fare solo partendo un passo alla volta. Qui c'è il patto di servizio, c'è la condizionalità della prestazione, insomma è una svolta sulla carta, è una svolta importante, e i soldi per esempio si potevano trovare. Io per esempio polemizzo, dico che sono stati buttati soldi con l'elicottero per quanto riguarda le pensioni. Noi spendiamo un sacco di risorse per mandare diciamo in pensione prima delle persone che potrebbero ancora lavorare, e in realtà queste risorse si potevano destinare, se fosse stato facile e possibile, si potevano destinare per reimpiegare queste persone magari anzianotte che perdevano il lavoro. Tenga anche conto che per esempio si parla poco di un programma che è quello della garanzia giovani. Sì. Eppure la garanzia giovani è riuscita ad offrire queste strutture anchilosate, è riuscita ad offrire un'occasione di lavoro. Occasione di lavoro non vuol dire un posto, esatto, di lavoro. Sì. A 400.000 giovani in poco più di un anno, con risorse e a disposizione di 1,5 miliardi in 2 anni. Quindi è stata forse la sperimentazione. Aspetti, ma posso chiedere, Bentivoglio condivide, io sono più critico sul bilancio fino ad oggi di Garanzia Giovane, secondo me è stato più un flop che un successo, perché la stragrande maggioranza di quei posti sono, sì, occasioncine per così dire. Bentivoglio che pensa al bilancio, di quello che abbiamo imparato da Garanzia Giovane? Ma ecco, io lo considero un parziale insuccesso, un parziale successo, anche dipende dai punti di vista, nel senso che è stato molto positivo per quello che riguarda la raccolta della banca dati, nel senso che è una cosa assurda, ma un milione di contatti così l'Italia non l'ha mai avuto in nessun database, e questo è allo stesso tempo per quello che riguarda la garanzia, per cui l'accesso in qualche modo all'occupazione per tutti questi ragazzi è una cosa che è stata fatta vedere un po' col binocolo. E io sono portato sempre a cercare di vedere gli aspetti positivi. L'aspetto positivo è che io inserirei quello che non è andato, e ce n'è di cose che non sono andate in Garanzia Giovani, in queste cose che diceva anche Giuliano di sperimentazione. Perché sono d'accordo con quello che si diceva, serve un modello che prenda insieme le cose migliori che si fanno in Nord Europa e che sia traslabile da noi, perché il rischio è che la svolta diventi un'inversione a U molto spesso, e questo è ancora il pericolo su cui il governo deve stare molto attento. Allora, torniamo tra un minuto, informazioni sul traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, tra l'altro siccome il segretario della FinCISL Marco Bentivoglio ci deve lasciare subitissimo, ne approfitto per fargli una domanda apparentemente non collegata a questo, cioè vi abbiamo descritto la partenza del primo modulo per 30.000 disoccupati che almeno 4 mesi di NASPI hanno già incassato dell'assegno di ricollocazione, cioè del primo avvio delle politiche attive per affiancare il disoccupato, l'assegno di che va da 1.000-5.000 euro a seconda dell'esito che l'ente accreditato che sceglierà ciascuno di questi disoccupati per impiegare il suo voucher avrà in un percorso di riformazione, e con dei limiti se poi lui dice no alle offerte di lavoro. Abbiamo tentato di spiegarvelo, però detto questo c'è un altro grande casino, per così dire, che io non riesco a capire come la politica possa guardare senza intervenire. Riguarda l'INPS, cioè un istituto che maneggia ogni anno più di 400 miliardi di trattamenti con problemi nel suo patrimonio, con problemi sul bilancio intertemporale dei contributi rispetto ai 100 miliardi ogni anno che lo Stato deve dare dalla fiscalità generale per erogare quei trattamenti, e esplosa ieri con le dimissioni del direttore generale Cioffi dopo lunghi mesi di contrasti con il presidente Boeri per la riforma dell'ente impugnata anche al TAR. Eppure continuiamo a non intervenire, il governo continua a non intervenire. La mia opinione è che un organo di questa importanza, un istituto di questa importanza, non possa stare senza un CDA. Il CDA non ce l'ha più dal 2010, si fece una riforma con un sistema duale, l'organo si chiama CIV, non ha in realtà alcun potere vero di indirizzo di gestione, sta tutto nelle mani di un capo azienda solo. Non riesco a capire come questo possa garantire efficienza e trasparenza. Che ne pensa Bentivogli? Ma sì, io credo che bisogna fare sempre lo sforzo che in Italia non si fa mai, cioè di scindere le valutazioni sulle persone da quelle sul funzionamento e di come le cose dovrebbero andare. Io sono d'accordo che un organo così importante, è vero che anche quando c'era il CDA, c'era il CIB, eccetera, tutto questo controllo, noi sappiamo le cose che sono accadute in passato anche all'INPS, quando il CIB era in sella e il CDA funzionava, per cui purtroppo non bastava. Però penso che sia assurdo che non ci si occupi di ripristinare il minimo di funzionamento rispetto a quelli che sono gli organismi societari statutari di un ente previdenziale più grande che c'è in Italia. Questo a prescindere da quelli che sono i protagonismi o meno di Boeri, questo poco importa. No, però, no, ma infatti, o del valore di quello che propone Boeri, della sua preparazione. Esatto, cioè, c'è dubbio. Sono spesso cose che si condividono, cose che si condividono un po' meno. Certo, spesso c'è un ruolo che sconfina su alcune cose che spesso sono anche pubblicate in modo non del tutto preciso, però io credo che diciamo, il nostro ordinamento non prevede un amministratore unico dell'INPS. Appunto. Adesso comunque detto, io la ringrazio intanto di essere stato con noi. Faccio però la stessa domanda a Cazzola brevissimamente. Ma lei pensa che dobbiamo aspettare il referendum? Perché alla fine questo scrivono i giornali. Non capisco cosa c'entra il referendum, però perché aver aspettato tutti questi mesi? Lo scontro era aperto, il direttore generale che si è dimesso è indagato per una vicenda che riguarda l'azienda che non aveva pagato contributi prima della sua nomina, però lo scontro è apertissimo. Perché non si è intervenuti? Lo scontro è aperto, si è intervenuti, io questo non glielo so dire. Io posso testimoniare che nella passata legislatura non c'era giorno senza che in Parlamento non si presentasse una risoluzione e con la quale si chiedeva il ripristino di direzione collegiale dell'INPS. Adesso questa istanza è sparita. Secondo me, e non vorrei essere un po' malevolo, ma dalla parte di Boeri secondo me c'è un certo tipo di informazione. C'è stato un importantissimo, per esempio, servizio televisivo molto seguito, sì, che ha mostrato, ha parlato del conflitto, ma ha presentato Boeri come un grande innovatore rispetto invece al mondo della conservazione che lo circonda. E lei non è molto d'accordo? Io non sono molto d'accordo con questa cosa qui, insomma, non è che si può semplicemente essere innovatori per essere innovatori fare un po' di casino. Però al netto di tutto questo faccio il molevolo anch'io. Tutti sappiamo che Boeri doveva fare il ministro, poi non l'ha fatto. Alla presidenza dell'INPS ci si è arrivati con un capo del governo che lo ha, per così dire, convinto. Tra l'altro, sostituendo Tiziano Treu. Esatto. Non è mica una cosa da poco. Esatto. Non posso questo, ma ti faccio quello. Di lì anche la volontà politica di far capire che le sue opinioni erano diverse rispetto a quelle di Poletti e del governo innumerevoli volte, Boeri, eccetera. Questo ha creato un problema politico, però resta la mia opinione: non si può stare in questa condizione. Almeno ai miei occhi è totalmente incomprensibile, per così dire. Sentiamo rapidissimamente almeno un ascoltatore, Paolo da Parma. Paolo, prego. Buongiorno, sono molto scettico su queste politiche attive del lavoro. Intanto chi riceve i voucher dovrebbe sapere quali aziende cercano personale, esatto, e tutte qualifiche. Sì. E questo in genere i centri per l'impiego non lo sanno fare, è vero. Per cui una cosa alla cieca. E poi, trattandosi di persone già disoccupate, con una certa età, molto probabilmente sarebbe più importante sapere cosa cerca il mercato. Ah sì, ma è proprio questa la sfida di costruire una competenza di questo tipo. Io confido molto nell'outplacement privato. Vedremo, purtroppo, perché il suo scetticismo è motivato. Nella storia lei ha ragione.